24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati, eccoci qua con 24 mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua. Buona giornata a tutti, ciao Alessandro. Ben ritrovata. Anche oggi ci concentriamo sulla tragedia abruzzese e sulla rete della solidarietà, insomma, che continua a muoversi e essere in movimento. È vero, abbiamo scoperto in questi giorni tutti i canali che si sono aperti, che sono disponibili per le famiglie italiane che vogliono contribuire a sostenere in queste ore difficilissime le famiglie terremotate in Abruzzo. Abbiamo visto come tante banche hanno aperto conti correnti dove è possibile effettuare delle sottoscrizioni, abbiamo visto come si stanno movimentando le numerosissime associazioni di volontariato nel nostro paese con iniziative di vario genere. Abbiamo visto i gruppi delle telecomunicazioni che hanno attivato la numerazione solidale dove è possibile effettuare delle donazioni appunto anche minime, quindi tutti possiamo contribuire. Oggi parliamo di un altro aspetto, la donazione, se così vogliamo chiamarla, di generi alimentari con Vittore Mescia, responsabile logistica della Fondazione Banco Alimentare, che saluto e ringrazio di essere con noi questa mattina a Soldi e Dintorni. Mescia, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, la Fondazione Banco Alimentare sta raccogliendo e distribuendo generi alimentari appunto per aiutare chi è stato colpito dal terremoto in Abruzzo. Questa mattina abbiamo dato loro spazio perché molti ascoltatori ci hanno scritto nelle ultime ore per chiederci se è possibile, invece del denaro, fare la spesa e mandare del cibo, naturalmente non deperibile, direttamente ai terremotati. Di primo acchito il buon senso, almeno per quello che mi riguarda, ci suggerisce di sconsigliare questa procedura. È meglio che le organizzazioni preposte alla gestione del cibo lo facciano senza il disturbo, passatemi il termine, di iniziative individuali e disorganizzate, che poi è naturale che non vadano a buon fine. Mescia, voi come vi state muovendo appunto per la raccolta di cibo e la redistribuzione in Abruzzo in queste ore? Noi ci stiamo muovendo in questo modo. Abbiamo una sede importante a Pescara, l'Associazione Banco Alimentare dell'Abruzzo, che è diventato il centro di questo sostegno alle popolazioni terremotate. Abbiamo chiesto un sostegno alle aziende agroalimentari perché, come lei ha ben detto, è molto difficile gestire le singole donazioni, anche se il buon cuore della gente è davvero immenso e anche a noi sono giunte molte offerte di cibo da parte di singoli privati. Noi li abbiamo scoraggiati proprio per evitare dispersioni e poi per l'ingestibilità logistica di queste donazioni. Certo, perché se anche vi arrivasse in un vostro centro, voi che cosa ne potete fare naturalmente? Sarebbe davvero difficile riportare tutto a Pescara, davvero con un impegno improponibile in questo momento. E quindi abbiamo chiesto il sostegno delle grandi aziende, le quali si sono attivate, consegnano direttamente i prodotti più necessari, più importanti questa prima emergenza al magazzino di Pescara, e da lì inizia la distribuzione, parte la distribuzione per l'Aquila, per i luoghi più colpiti. La distribuzione avviene attraverso due canali importanti: uno, il coinvolgimento di quelle associazioni aquilane che già sono convenzionate con l'Associazione Banco Alimentare dell'Abruzzo, la Croce Rossa Locale, le Caritas, associazioni di volontariati del territorio, quelle che almeno riescono ancora ad attivare un servizio, purtroppo, perché sono state colpite anche loro. E l'altro canale è quello del contatto diretto con la Protezione Civile e il coordinamento della Prefettura, che indirizza nei luoghi dove c'è più necessità di beni immediatamente consumabili le donazioni e le consegne da parte dell'Associazione del Banco Alimentare. Ecco, che tipo di iniziative avete raccolto fino a questo momento da parte delle aziende alle quali per la distribuzione di cibo avete chiesto supporto, Mescia? Ma noi abbiamo chiesto soprattutto quei prodotti, diciamo così, che sono facilmente distribuibili e consumabili, quindi cracker, fette biscottate, biscotti, tonno e scatola, succhi di frutta, acqua, perché ci è stato segnalato che mancava l'acqua, latte a lunga conservazione, perché c'è tutta i prodotti, diciamo, più utili per creare dei pasti pronti in questo momento sono forniti dalla Protezione Civile, che ha un'organizzazione molto importante e comunque molto efficiente, e al limite questo tipo di sostegno verrà allargato alle fasi successive oltre l'emergenza, perché certamente i problemi non finiranno in questi giorni. In questi primi giorni, naturalmente. Quanti volontari avete mobilitato? Ma noi lì al magazzino e alle sedi del Banco Alimentare dell'Abruzzo attualmente operano circa una cinquantina di volontari. essendo la nostra attività di logistica, permettetemi il termine, grossa, non è necessario avere tantissime persone, perché noi muoviamo camion, per cui non chiediamo di venire in magazzino a tante persone, proprio perché, come diceva prima, a volte si genera disturbo al posto di migliorare l'efficienza. Quindi orientiamo al limite l'offerta di volontariato alle associazioni più piccole, che poi si occupano direttamente delle persone che hanno bisogno. Ecco Mescia, se un'azienda che ci sta ascoltando in questo momento, che produce pomodori pelati piuttosto che succhi di frutta, sì, ci ascoltasse e volesse contribuire ad aiutare in questa fase ancora difficilissima per le popolazioni terremotate dell'Abruzzo attraverso il vostro canale, che cosa deve fare? Deve telefonare qui in fondazione, se vuole le lascio il numero. Molto volentieri, ce lo dà sicuramente, poi magari lo pubblichiamo anche sul nostro sito internet. Sì. Certo, che è lo 02 89 65 8463, perché da qui riusciamo a coordinare tutte le donazioni che arrivano da tutta Italia, che avvengono in questo modo. Se un'azienda offre un quantitativo di un certo rilievo, lo facciamo consegnare direttamente al Banco Alimentare dell'Abruzzo. Qualora il quantitativo sia più limitato, giustamente, perché ognuno dà quello che può, lo stocchiamo temporaneamente nelle altre sedi della nostra rete in Italia e poi organizziamo il trasporto noi direttamente al Banco Alimentare dell'Abruzzo, questo per ottimizzare tutte le donazioni e non disperdere nulla. Ecco, questo per quello che riguarda le aziende. Naturalmente non per questo dobbiamo scoraggiare totalmente il desiderio di aiuto da parte dei privati che vogliono comunque sostenere il canale, come dire, alimentare che passa attraverso di voi. Per un privato quindi è preferibile la donazione in denaro? Ma noi ai privati chiediamo questo, proprio per quello che abbiamo detto prima, cioè la difficoltà di gestire le singole donazioni, chiediamo la donazione in denaro. Questi fondi che stiamo raccogliendo serviranno per gestire soprattutto il post emergenza, perché noi abbiamo l'esperienza del terremoto dell'Umbria, dove in quei territori l'azione del Banco Alimentare a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto è continuata per più di 2 anni. Con la condivisione e la donazione di cibo necessario, per cui questi fondi poi serviranno a gestire, in relazione poi in coordinamento con la Protezione Civile e la Prefettura, l'acquisto eventuale di prodotti successivamente all'ondata di emergenza che si sta manifestando adesso. Mescia, noi conosciamo il Banco Alimentare, la vostra fondazione, perché almeno una volta all'anno troviamo i vostri volontari tutti vestiti di giallo nei grandi supermercati delle grandi città, ma anche in quelli più piccoli naturalmente, certo, perché organizzate queste raccolte di generi di prima necessità per le famiglie che sono in condizioni di disagio economico, e poi anche lì insomma c'è un altro tipo di redistribuzione che viene effettuata. Vi siete mai trovati a dover gestire un'emergenza di portata così, così grande, così, così terribile? Ci citava poco fa il caso dell'Umbria, quindi mi pare di capire che è già successo. Sì, nella nostra storia abbiamo 2 interventi particolari. Uno, io purtroppo non lavoro da tantissimi anni in fondazione, per cui non li ho vissuti in prima persona, però dai racconti che sono avvenuti questi giorni anche dei volontari storici della fondazione, il Banco Alimentare in Italia è intervenuto diciamo così più silenziosamente di questa volta, perché ai tempi non eravamo stati coinvolti proprio in prima battuta, soprattutto nel terremoto dell'Umbria, con l'associazione dell'Umbria che ha collaborato per parecchi anni anche con i comuni limitrofi ad Assisi, proprio perché poi la sede del banco è a Perugia, quindi a pochi chilometri, a sostegno delle popolazioni. E poi ci fu un intervento molto grosso, molto importante, non in Italia, una raccolta straordinaria che ebbe un successo eccezionale per il Kosovo ai tempi della famosa guerra. Quindi sono le 2 urgenze alle quali siamo intervenuti, diciamo così, in maniera diretta. In Italia, come lei ben sa, grazie a Dio, anche se purtroppo questi eventi succedono all'improvviso e colpiscono tantissime persone, negli ultimi anni non ce ne sono stati di frequentissimi e di ingenti, per cui ecco, l'esperienza grossa è con l'Umbria, adesso con l'Abruzzo stiamo facendo una prova molto importante per la nostra organizzazione. Ultime indicazioni di servizio, allora Mescia, come è possibile contribuire attraverso di voi? C'è la possibilità di effettuare delle donazioni con un conto corrente bancario intestato a Banca Prossima, c'è un conto corrente postale, io credo che sul vostro sito internet sul si possa trovare tutto. www.bancoalimentare.org trovate tutte le indicazioni necessarie per sostenere questa nostra attività. Ecco, anche perché volevo segnalare, adesso non per smentirla in diretta, che io ho il vostro comunicato stampa, forse abbiamo dato il numero sbagliato per quello che riguarda il desiderio di contribuzione da parte delle aziende. Il 6-3 finale è per i privati, se non sbaglio. Il 5-8 finale è quello per le aziende, quindi comunque questo non è un problema. Sul sito internet si trova di tutto. Si possono smistare molto serenamente anche le telefonate. Mescia, grazie, buon lavoro per le prossime ore. Grazie anche a voi, buona giornata. Alessandro. E allora, poi come ieri, insomma, siamo il punto di riferimento, Deborah, come sai, no? 24 mattino e tradio24.it, sì. Anche ieri sono arrivate tante mail, alle quali hai risposto a tutte? Ho risposto a tutte quante, ne ho fatta sfuggire neanche una, tra l'altro c'è molta gente, volevo solo dirle, Alessandro, che ci chiede come è possibile effettuare delle donazioni di vestiario. Questo è un canale che sarebbe preferibile, come dire, scoraggiare. Comunque l'idea è di rivolgersi alla sede della Croce Rossa più vicina per capire come loro si stanno comportando per una donazione. Di questo tipo. La Croce Rossa. Grazie. Alle 12 ritorno. Alle 12 ritorno con tutte le banche, come si stanno muovendo, come anche avverrà l'iniziativa di sospensione dei mutui delle famiglie terremotate che ovviamente, avendo perso la casa e probabilmente il lavoro e forse qualche familiare, adesso non pensano certo di pagare la rata del mutuo. Sono le 8:32, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Un'altra notte di paura per l'Abruzzo colpito dal terremoto. Si susseguono scosse anche molto forti. Le squadre di soccorso continuano a scavare. E tra l'altro proprio poco fa la Protezione Civile ha aggiornato il bilancio delle vittime. Le vittime finora accertate sono 250. Un bilancio, dice la Protezione Civile, ancora provvisorio. 11 le persone non ancora riconosciute. Si è concluso il viaggio europeo del presidente americano Obama, che prima di fare rientro a Washington ha fatto una tappa sorpresa a Baghdad. I prossimi 18 mesi, ha detto Obama, saranno cruciali per aiutare gli iracheni a prendere il controllo del paese e poter così portare a casa i nostri ragazzi. Novità importante dal mondo della scuola: per accedere all'esame di maturità quest'anno basterà avere la media del 6, si potrà avere dunque qualche insufficienza, contrariamente a quanto era stato annunciato dal governo, purché l'insufficienza non sia nel voto di condotta. Lo stabilisce un'ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione. L'accesso all'esame con tutti i 6 è di fatto rinviato all'anno prossimo. Infine, due agenti della Polizia Ferroviaria di Milano sono stati arrestati con l'accusa di avere picchiato un senzatetto causandone la morte e di avere poi tentato di coprire la verità con un falso rapporto. L'episodio risale a 6 mesi fa. I due sarebbero stati incastrati dal video di una telecamera. E allora alle 8:33 abbiamo sentito il bilancio dato proprio pochi minuti fa dalla Protezione Civile: 250 morti accertati, purtroppo la cifra non è ancora definitiva, 11 corpi non sono stati ancora identificati, si continua a scavare nella speranza di trovare sotto le macerie ancora qualche sopravvissuto. Certo, il tema che c'è oggi sui giornali è questo: ma come è possibile davvero che così tanti edifici, le case ma anche edifici pubblici, siano crollati? Ha fatto scalpore, è stata una dichiarazione molto forte quella del presidente della commissione anticrisi Barberi, che ieri ha ribadito: un terremoto del genere in California avrebbe provocato 0 vittime. Oggi Gian Antonio Stella, inviato da Onna, una delle zone più colpite, racconta quello che gli ha detto Bruno Canali, che gli fa vedere la sua villetta, il suo villino. Guardi, non c'è una crepa, l'ho costruita con tutti i criteri antisismici. Accanto alla sua villetta, a pochi metri, le altre case sono letteralmente sbriciolate. Io saluto il professor Claudio Chesi, buongiorno. Buongiorno. Lei insegna tecnica delle costruzioni al Politecnico di Milano. Esattamente. Quando io ieri ho visto in TV, guardando un po' qua e là, ho visto Ballarò, ho visto le immagini dell'ospedale dell'Aquila, sono rimasto basito, e poi mi è salita anche la rabbia. La rabbia per vedere l'ospedale, uno degli edifici, dovrebbe essere l'edificio più sicuro, l'ospedale. E insomma, quando succedono queste cose, dove si va? In ospedale. L'ospedale che porta... evidentemente mostrava delle crepe strutturali incredibili. Allora, professor Chesi, com'è possibile che così tanti edifici siano crollati? E chiaramente, evidentemente, si tratta di costruzioni che sono state realizzate senza il rispetto di una norma antisismica. Quindi in Italia noi abbiamo una primissima norma antisismica nel 1962, quindi purtroppo non possiamo imputare colpe a edifici realizzati prima di quella data. invece ci sono responsabilità dal 1962 in poi nelle zone in cui era previsto naturalmente una attività sismica del terreno. E quindi cosa possiamo dire? Che ci può essere la mancata applicazione della norma, ci possono essere errori di progetto, purtroppo il problema sismico non è banale, quindi la progettazione potrebbe essere errata, e però non bisogna dimenticare che potrebbero esserci responsabilità forti da imputare alla realizzazione, cioè alla qualità dei materiali, oppure una non corretta esecuzione dei dettagli. Nel caso del cemento armato questo è importantissimo, cioè il cemento armato si gioca principalmente sull'armatura che mettiamo dentro, sulle barre d'acciaio, quindi le barre vanno disposte come previsto dal progetto rispettando una serie di regole, e quindi è possibilissimo che anche in fase di esecuzione si introducano errori che poi il terremoto mette in luce. Tra l'altro, professore, lei, credo, in una dichiarazione che ho letto sull'agenzia, ha voluto fare una distinzione importante che è bene spiegare, perché molti hanno detto: ma guardate che anche tanti edifici costruiti con norme antisismiche hanno subito lesioni, però una cosa è il crollo, cioè voglio dire, quando laddove crolla una casa vuol dire che qualcosa c'era di norme antisismiche non rispettate. Laddove ci sono delle lesioni bisogna dire che vedete che anche le norme antisismiche non potevano nulla? La sua domanda è molto pertinente, perché l'orientamento di tutte le moderne norme sismiche è quello di garantire una situazione in cui c'è collasso senza crollo in termini tecnici, che vuol dire che la struttura è ampiamente danneggiata ma è rimasta in piedi, quindi noi accettiamo il rischio di dover fare sostanziali riparazioni o addirittura di ricostruire. Questo non si applica all'ospedale, il quale non solo non deve crollare, ma deve garantire piena operatività proprio nella fase dell'emergenza post-terremoto. Guardi, oggi sui giornali ne è pieno anche di come in una commissione del Senato di alcuni anni fa, una commissione che doveva studiare tutte le strutture edilizie sanitarie del paese, aveva già messo in luce come l'ospedale dell'Aquila, ma non solo l'ospedale dell'Aquila, diversi ospedali in Italia, ma l'ospedale dell'Aquila anche in particolare era uno scempio dal punto di vista del rispetto della normativa. Ma questa è una storia un po' all'italiano. Tra l'altro, professor Chiesi, le voglio far ascoltare, voglio salutare Guido Ammaturo, se ci sente. Buongiorno Ammaturo. Buongiorno, a voi. Buongiorno Ammaturo. Lei, ci troviamo in Abruzzo, ha una casa, tra l'altro era nel centro dell'Aquila. Le chiedo della sua casa che ne è, perché ovviamente il centro dell'Aquila. Non sono più potuto ritornare a casa, anche su saggia indicazione del personale che opera lì, sia per antisciacallaggio, sia per la sicurezza del centro storico. Io ho lasciato casa lunedì intorno alle 15, l'ultima volta sono tornato per prendere delle cose per una persona anziana che ho a casa, che non sta bene, e la casa, diciamo, ha retto per quello che era il lavoro fatto di ristrutturazione su un corpo di fabbrica molto antico. Però quello che è accaduto dopo le 15 di lunedì non saprei dirle. Senta, la sua casa so che risale, ma è vero, è molto molto antica, insomma, la casa. Del 500 il corpo di fabbrica, e poi con delle superfetazioni come in tutti i centri storici, però proprio di recente la sovrintendenza aveva fatto una ricerca, avevamo individuato più o meno l'epoca del 500. Diciamo. Allora, lei tra l'altro ha raccontato a Mariano Maugeri, che l'ha scritto sul Sole 24 Ore, che lei di recente ha fatto delle modifiche, essendo la casa molto molto antica, quindi di pregio, di valore, ha dovuto rispettare tutte delle norme della sovrintendenza dei beni culturali. Per esempio, cioè, che cosa gli hanno chiesto? Le cose fondamentali, innanzitutto per quanto riguarda la tipologia dei materiali, per quanto riguarda i criteri di pulitura delle pietre, per dire, sono usciti degli archi, gli archi vanno puliti secondo dei criteri non invasivi. È la cultura, cioè, bisogna usare dei microoggetti, non la sabbia, perché altrimenti la sabbia distrugge. Insomma, si è fatto un lavoro nel rispetto di quella che è la storia. Dei beni culturali, ma è giusto, insomma, la cultura è importante. Tutto, ed è tutto così lì al centro storico. Di fronte c'ho dei resti di un ingresso di un monastero che è un po' abbandonato, è una proprietà pubblica che rischia di crollare completamente, per esempio. Dopo che io ho scritto e ho atti formali, ho chiesto un intervento su quel muro. anche se non era mio, ma io credo che sia un dovere. Dopodiché, signora Maturo, le hanno chiesto dal punto di vista antisismico, le avranno detto... Guardi, quello è il punto debole che io mi sono permesso di segnalare, ma non egoisticamente, non parlo ora del danno subito da me, perché, come suole dire, lo abbraccio e lo faccio mio, e come verrà la prendo, perché il danno che hanno subito gli altri, la perdita della vita, non è... Scusi... No, la capiamo benissimo, certo. Non fa niente. Però non ho visto nella stessa misura e attenzione un riflesso su quello. Io la casa è tenuta in piedi per lo scrupolo delle persone che hanno fatto la mia progettazione, perché mi hanno letteralmente tormentato in senso positivo di spendere qualcosa in più per fare certi lavori piuttosto che pensare all'estetica, tant'è che io alcune parti non le avevo finite. Cioè, parliamoci chiaro, di norme antisismiche non gliene fregava niente a nessuno, non le hanno chiesto niente. Io non ho avuto alcuna richiesta formale, diciamo, per cui nella mia coscienza io ho fatto quello che potevo affidandomi a dei professionisti, però la cura in un contesto del genere, ed oggi mi appare ancora più chiara la gravità di questa situazione, di come andrebbe curato sull'antico, non solo l'aspetto estetico. Consideri che c'è una legge recente dello Stato sulle architetture rurali, che sono poi quelle di Onna, di Paganica, che le regioni avrebbero potuto portare diciamo un supporto significativo per ristrutturarle e metterle in sicurezza, che non è operativo perché non sono state individuate. No, ma guardi, ma è chiarissimo nella sua nel suo dramma, ecco. Io capisco, giustamente lei dice, la frase forse è andata un po' via, ma la casa va via, ma non importa, insomma, il problema è la vita. Però io, professor Chesi, vorrei tornare da lei. Allora, questo Guido Amaturo ci ha raccontato, cioè una casa della struttura del 500 portante. Le hanno fatto le pulci giustamente per rispettare nella ristrutturazione tutto quello che sono i beni culturali, la storia, la cultura, di quelle norme antisismiche. Se non fosse stata per la cura dello stesso Amaturo, che ha detto, ma insomma, forse all'Aquila è bene mettere qualcosa a norma, neanche una richiesta. Allora, se le istituzioni si comportano così... E questo purtroppo sì, è un serio problema. Questa testimonianza è molto importante, che oggi si tende a privilegiare, che so io, la conservazione di un intonaco o comunque di beni che per carità hanno grandissimo pregio ma sono esteriori, mettendo in secondo piano il problema della resistenza, che è il problema cruciale. E vorrei sottolineare che rispetto a questo, nella recente storia sismica italiana che inizia nel 68 col terremoto del Belice, noi abbiamo sviluppato una ricerca elevatissima e noi oggi sappiamo come intervenire sul nostro patrimonio culturale in muratura, quindi noi sapremmo che cosa fare, bisogna che ce lo lascino fare per portare a condizioni di sicurezza questo sterminato patrimonio che noi abbiamo. Tra l'altro vogliamo ricordare, ieri il Sole lo ribadiva, insomma, le norme antisismiche ci sono. Sì. Il problema è che ci sono a volte le proroghe, a volte non vengono messe in atto, a volte poi non vengono rispettate, non ci sono i controlli, evidentemente, nel senso che c'è qualcuno che non le rispetta e ci sono pochi controlli. C'è anche questo, professore. Purtroppo rispetto alle norme ci troviamo ancora in una fase un po' tormentata di transizione verso una norma definitiva e totalmente moderna, quindi che ci dia totale protezione rispetto al terremoto. E rispetto a questo noi dobbiamo compiere una grande opera di educazione e di sensibilizzazione della nazione a tutti i livelli, quindi curare che la formazione universitaria dia a tutti gli ingegneri e gli architetti le competenze del caso e che la classe politica capisca che bisogna investire risorse pubbliche sulla prevenzione del terremoto, bisogna giocare d'anticipo, il che oltretutto costa molto meno che poi ricostruire, riparare e intervenire, certo, a seguito del disastro. Allora, io, professor Chesi, la ringrazio. Vorrei andare da Guido Amaturo per concludere. Amaturo, al di là della vicenda, insomma, della casa che lei ci ha raccontato molto bene, è emblematica anche questa di come è la risposta delle istituzioni, come si vive all'Aquila. Insomma, sono passati 2 giorni, lei non so se si trova ancora all'Aquila o se è uscito. Io francamente ho dovuto, avendo una persona invalida in famiglia, ho dovuto comunque andare via perché c'ho 20 scalini da scendere ed è una cosa proibitiva andare e salire in una situazione del genere, pur essendo non lo so la praticabilità a questo punto. Io ho telefonato a tutte le persone amiche, ovviamente ho delle situazioni anche dolorose di persone che non riesco a contattare, probabilmente per un problema di aria di telefonate. Sì, di linee telefoniche. Qualche persona delle zone periferiche, io spero che sia andata bene per queste persone, ma il resto l'ho visto, non ho più il cuore di vedere i telegiornali, le dico la verità. Perché vedo anche un futuro difficile, obiettivamente. No, guardi, io ieri, tra l'altro, vedendo sempre Ballarò, mi ha molto colpito il grido di dolore di una donna che diceva la nostra città, cioè sentiva anche la ferita per una città, insomma, l'attaccamento, ecco, a una città, vedere una città, o meglio il centro storico, sbriciolato, fatto a pezzi, insomma, posso capire per chi c'è nato, cresciuto, oltre al dramma, insomma, delle vite umane perse, anche questo è un dramma, vedere una città che in alcune parti non c'è più. Io la ringrazio anche lei, Guido Amaturo, grazie ovviamente, tanti in bocca al lupo. Le 8:48 minuti, l'ultima parte di 24 mattino. Allora, la domanda è questa che qualcuno si è posto: ma è possibile che nella politica ci siano costi minori e magari la politica renda anche di più, sia più efficiente? Parliamo di finanziamento ai partiti, ma anche di trasparenza della politica, trasparenza dei partiti. C'è stata una proposta che è stata lanciata ieri dal professor Gregorio Gitti, che è dalla Fondazione Etica che presiede. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei insegna diritto privato alla Statale di Milano, ma è anche appunto presidente della Fondazione Etica. Ieri ha incontrato, c'è stato un convegno, una proposta che oggi per esempio è sintetizzata così su Repubblica: nuove regole per il finanziamento ai partiti. I partiti sono trasparenti? Le faccio questa prima domanda. La risposta che dobbiamo dare è no. I partiti sono un elemento fondamentale della democrazia, lo riconosce anche la Costituzione italiana, sono, diciamo, destinatari a vario titolo di rilevanti risorse pubbliche. Secondo me è bene chiarire in una legge quadro quali sono i principi che debbono ispirare questo finanziamento pubblico e quali le responsabilità dei destinatari. Io credo che i partiti debbano essere destinatari di un finanziamento pubblico trasparente che li responsabilizzi su una politica di bilancio chiara, univoca e possibilmente con una certificazione da parte di revisori indipendenti. Oh, questo è un primo punto. Lei comunque è per il finanziamento dei partiti, anche se ci fu il referendum, però vabbè, insomma, sappiamo che ce li hanno reintrodotti. Ricordiamolo, tra l'altro, sono 200 milioni di euro l'anno. C'è per esempio una cosa però, professore, di forse scarsa trasparenza. Diamo tutti un euro per Camera, Senato, europee, regionali, cioè 4 euro l'anno per ogni iscritto nelle liste elettorali. Questo già vuol dire che per esempio anche se io non votassi dovrei versare i miei 4 euro. Ma io ripeto, credo che i partiti siano elementi fondamentali della democrazia e non dobbiamo avere un atteggiamento, diciamo così, banalmente ispirato da sentimenti di antipolitica. La funzione dei partiti è fondamentale, per questo che io credo che il finanziamento pubblico sia una risorsa importante. Il problema è renderla trasparente, principio di responsabilità. Io credo che i partiti debbano ingaggiare anche una concorrenza, una competizione al loro interno per selezionare una classe politica sempre più competente e adeguata ai tempi. Questo, secondo me, è ciò che ancora non avviene, che deve essere secondo me ispirato da una nuova legge che consenta, per esempio, seconda proposta, di tutelare le minoranze all'interno dei partiti con diciamo così, posti e ruoli anche a livello di controlli, ecco, particolari e tutelati, un po' come avviene nell'ambito del diritto delle società quotate, dove le minoranze hanno delle garanzie precise, ecco. Senta, oltre a questo oltre a questo, secondo me sarebbe importante fissare anche un tetto, come avviene per esempio sulla legge sui sindaci, fissare un tetto al limite dei mandati. Questo le tre legislature, per esempio. Un rinnovo della classe politica. Per esempio tre legislature potrebbe essere. Sappiamo per esempio che tre legislature. Ci sono politici che insomma dalla Costituente fino a oggi. In ogni caso, professore, per esempio il bilancio, lei prima l'ha toccato, il bilancio dei partiti oggi chi lo certifica? Allora, in questo momento sono revisori che sono nominati dai rami dei parlamenti, quindi sostanzialmente dei revisori, mi lasci dire, non indipendenti. E certo, si controllano, insomma, la storia del controllore e il controllato, no? Assolutamente. Ieri abbiamo appreso dal tesoriere Agostini del Partito Democratico che da quest'anno quella forza politica ha dato un incarico a PricewaterhouseCoopers, che è evidentemente una società di revisione di standing internazionale. Ecco, io credo, una decisione unilaterale, ecco, io credo che anche questo esempio possa, come dire, rendere realistica la proposta, così come abbiamo visto nell'ultimo congresso del Popolo della Libertà essere varato, essere approvato uno statuto che probabilmente per l'accordo di fusione, quindi per le pressioni che Alleanza Nazionale ha fatto, garantisce dei diritti delle minoranze. Quindi io credo che mettendo insieme le proposte unilaterali si possa realisticamente creare un quadro di riferimento. Senta, laddove tra l'altro invece il limite ai mandati credo che sia un po' più complicato. Sì, perché dovrebbero mai autoimporselo, no? È chiaro. Certo. Senta, per esempio, dei partiti, di tutti questi finanziamenti, questi soldi che noi diamo, si sa come vengono spesi? Quindi il bilancio, oltre a essere, abbiamo detto, certificato da revisori forse poco indipendenti, ma si sa almeno quanti dipendenti hanno? No, se pagano gli affitti, quanto pagano gli affitti delle sedi, come spendono i nostri soldi? No, non c'è una particolare trasparenza. Tra l'altro si è appena conclusa un lavoro di ricerca di una ricercatrice dell'Università di Siena che ha fatto con grandi fatiche, ecco, una raccolta di questi dati. C'è veramente molta resistenza e opacità. Questi bilanci non sono assolutamente trasparenti. E il primo dato per avviare una riflessione è chiaramente lavorare su dati, su notizie, su informazioni che in questo momento, ahimè, non ci sono. Io credo che dopo la certificazione, per esempio, del bilancio del PD, qualche cosa si possa sapere di più, per esempio, su quel partito. Ecco, io credo che da parte delle forze politiche un vincolo di un impegno alla trasparenza sia un dato ineliminabile per poter avvicinare i cittadini. E anche perché, professore, non è populismo questo, ma sono soldi nostri, insomma, uno vuole in maniera semplice, banale, non populista e non demagogica sapere a che cosa servono. Senta, un'ultima questione, professore, so che ieri nel convegno sono stati esposti anche dei dati molto interessanti, per esempio i rimborsi ai partiti in Italia sono sui 200 milioni, in Germania 133 milioni, in Francia 73 milioni l'anno. Il rapporto tra indennità parlamentari e reddito pro capite in Italia è il più alto, 6-1, cioè 6-1 il rapporto tra indennità parlamentari e reddito pro capite. In Francia è 3,3-1, in Germania 3,2-1. Insomma, l'indennità dei parlamentari guadagnano troppo? Si direbbe di sì da questo rapporto. Sì, se dobbiamo fare una valutazione media dovremmo rispondere di sì, però anche in questo caso, io non voglio dare un giudizio di merito. Se guadagnano devono rendere. Ecco, io ho bisogno di capire per fare una valutazione qual è la resa del lavoro parlamentare. Anche in questo caso, non ci sono dati se non quelli abbastanza banali delle presenze. Ma mi piacerebbe sapere che cosa un parlamentare fa, quanti disegni di legge ha presentato, qual è la sua attività nelle commissioni parlamentari. Voglio dire, ci sono gli studenti che ci valutano nelle università, ripeto. A voi professori. Dice. A noi professori, intendo dire. Ed è un momento importante quello del confronto, no? Con certo, con i nostri utenti. Sì, lì c'è poca trasparenza. Per il momento, professore, ieri hanno chiesto un'ora di ricreazione in Parlamento. Si è scatenata una bagarra, la proposta del deputato Giachetti. Ma insomma, no, ma questo è per concludere con una battuta. Me lo conceda. Hanno chiesto l'ora di ricreazione perché adesso con la storia dei pianisti sono lì a votare tutto il giorno. Hanno messo all'ordine del giorno la richiesta di un'ora di ricreazione. Fa un po' ridere, come a scuola. E sta, credo che verrà bocciata, ma insomma, questo... No, per concludere con una battuta, professore, io la ringrazio, è stato molto gentile, professor Gregorio Gitti, presidente della Fondazione Etica. Vedremo se questo appello a fare una legge per maggiore trasparenza di base verrà accolta oppure no. Grazie, ci fermiamo qui. Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Tra poco c'è Giuliano Ferrara che parla del viaggio di Obama in Europa e noi ci sentiamo domani.